Thank you. Oh, amico, via deserto fino a domani. Le gole di Napata, di Napata le gole. Oh, my God. piedi stolle e i giudici, mai non udranno l'accento dinanzi a nubbia di uomini, da vile re ogni sento, proferse il labbro incauto, fatal segreto avere. Svanita di speranza sol bramo di voler. perdi costoro, io stessa lo gettai. Una te increpa atroce gelosia, che la sua morte una visión no podrá mal en questa Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。